Bruciore di stomaco? Dalle coltivazioni e dalla ricerca Aboca, gli estratti vegetali di Bioanacid proteggono la mucosa dello stomaco dall'attacco dell'acidità. Bioanacid protegge lo stomaco, alleviando il bruciore. Bioanacid da Aboca. Autorizzazione ministeriale dell'11 gennaio 2013. Radio 3 Lezioni di musica. Alessandro Solbiati, Die Krähe e der Wegweiser, da Winterreise, di Franz Schubert. Buongiorno, sono Alessandro Solbiati e sto facendo con voi un excursus lungo alcuni leader di Schubert e in particolar luogo su alcuni dei leader della Winterreise, del grande ciclo della Winterreise, dei 24 leader sul viaggio d'inverno, di questo viandante che ha lasciato la città abbandonato e che fa questo viaggio nel buio, nel freddo, nel gelo, nel ghiaccio, nell'ostilità, nei cani che gli abbaiano contro, eccetera. Un vero e proprio viaggio esistenziale dove non c'è più luce in nessuna forma, salvo che la vera luce è quella che la musica ci dà, che la musica e il canto ci danno. Vediamo il quindicesimo di questi leader, Die Krähe, la cornacchia, un titolo abbastanza duro. Vi leggo immediatamente la traduzione del brevissimo testo, peraltro. Una cornacchia era uscita con me dalla città. Fino ad oggi non ha smesso di svolazzarmi intorno. Oh, cornacchia, bizzarro animale, non mi vuoi dunque abbandonare? Pensi di avere presto il mio corpo come preda? Certo, non durerà più molto il mio cammino. Oh, cornacchia, fa che io veda finalmente la fedeltà fino alla tomba. Il testo è naturalmente in sé progressivamente abbastanza terribile, cioè inizia semplicemente con il fatto che questo uccello, sì certo, un uccello non tanto allegro, lo ha seguito sempre, poi però a poco c'è una spirale. Perché questa cornacchia non l'abbandona e quindi la domanda è: ma pensi di avere presto il mio corpo come preda? E quindi pensi che io stia per morire presto? E alla fine i due versi peggiori, cioè cornacchia, fa che io veda finalmente qualcuno che mi è fedele fino alla tomba. E la parola finale, la parola grave, tomba, sarà poi il centro di interesse di questo lead. Allora, abbiamo sempre parlato fino ad oggi del rapporto testo-musica in Schubert, della sua attitudine a scegliere un nesso, un centro di interesse. In questo caso il centro di interesse è vistosamente il contrasto alto-basso. Perché? Perché evidentemente è un lead a testa in su, si parla verso l'alto, si parla alla cornacchia, si guarda al cielo e si vede la cornacchia, quindi c'è un alto che l'aria, ma poi, improvvisamente, alla fine, c'è un basso particolarmente e tragicamente basso, cioè non tanto la terra, ma la tomba, cioè il sottoterra. Su questo contrasto si gioca il lead. In che senso, musicalmente? Schubert qui fa una scelta molto particolare, non frequentissima in generale nel lead schubertiano e men che mai nella Winterreise. È un lead tutto acuto, è un lead tutto in chiave di violino. L'inizio che sentiremo pianistico è così. In pratica i 9 decimi di questo lead sono con 2 chiavi di violino, è tutto in chiave di violino, è tutto sopra il do centrale, tutto nella parte acuta dello strumento. Vedremo poi dove ci porterà l'arrivo alla parola grave, alla parola tomba. Ascoltiamo adesso l'introduzione pianistica e l'ingresso della voce che poi commenteremo. Der Stadt gezogen ist bis heute für und für mein La considerazione importante da fare sul piano strettamente musicale è una struttura dell'organico utilizzato di voce pianoforte del tutto originale e molto significativa, cioè la mano sinistra del pianoforte. La differenza di tonalità risente, come sempre, del fatto che ogni cantante imposta i leader nel tono che vuole, quindi l'impostazione data dal fichier di scavo è diversa da quella della partitura che ho davanti. la mano sinistra del pianoforte, già molto acuta, fa il tema, cioè raddoppia all'ottava superiore la voce che fa la stessa cosa all'ottava inferiore. E l'accompagnamento armonico è ancora più su. Quindi è tutto sbilanciato verso l'alto, è la voce in questo caso a essere il basso del brano, ma questo è perfettamente coerente con l'immagine, si guarda e si parla alla cornacchia, veramente non ancora si parla alla cornacchia, per il momento si descrive solo il fatto che là in alto, sopra la testa, vola fedele, costante e un po' implacabile questa cornacchia. Si arriva così alla seconda delle strofe e qui c'è una considerazione già fatta in questi nostri incontri. Improvvisamente nei testi che a Schubert piacciono tanto si passa in discorso diretto. O cornacchia, bizzarro animale, non mi vuoi dunque abbandonare, pensi di avere presto il mio corpo come preda? E in ogni caso di questi, Schubert cambia modo di fare musica, cioè la voce non è più narratore del testo, ma è personaggio, è direttamente il viandante e quindi diventa una sorta di recitativo che si stacca dalla musica. La musica si congela, adesso lo ascolteremo. Anzi, facciamo una cosa, lo ascoltiamo subito e poi lo commento. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl bald als Beute hier meinen Leib zu fassen. Come avete sentito, c'è qualcosa di grottesco in questa fissità, in questo rivolgersi alla cornacchia, perché insomma non è normale rivolgersi a una cornacchia, cornacchia, bizzarro animale. Ecco, questo bizzarro animale forse ha dato l'idea a Schubert di bloccare l'armonia senza cadenze, con una ripetizione strana. Andrebbe fatta. E poi si sposta. E poi si fissa da un'altra parte. Vedete, una specie di sospensione del tempo. E questo guardare in alto è tutto per aria e anche l'armonia è fissa. Eppure senza cadenze, è un'oscillazione ripetuta, con una domanda però importante: pensi di avere presto il mio corpo come preda? A questo punto si arriva alla terza strofa. Da un punto di vista formale, questa volta il discorso diretto ha costituito il B di un pezzo in struttura BA e quindi il ritorno al discorso indiretto, perché la terza strofa dice certo non durerà più molto il mio cammino, quindi è di nuovo in discorso indiretto, è interpretato come ripresa, ma è una ripresa mirata, perché è la ripresa che deve condurre alla esplosione della parola tomba. La linea vocale che fino adesso abbiamo sentito a piccolissimi intervalli diventa viceversa una cosa così. Fino a qua è uguale. Attenzione. Attenzione. Questa tirata verso l'acuto, verso un culmine inaspettato, dove il pianoforte diventa molto forte e molto violento, è sulla parola grave, è sulla parola tomba. Cioè la parola tomba è proiettata verso l'alto, ma subito dopo si ripete e quindi siamo ancora una volta di fronte all'espansione della terza strofa. Più volte è fatto notare che Schubert ottiene il suo centro di interesse, mette in evidenza il suo centro di interesse mediante un'espansione. In questo caso due strofe occupano complessivamente 24 battute, la terza strofa da sola ne occupa 19, cioè quasi quanto le altre due insieme, come? Mediante una ripetizione in cui ancora una volta si fa, ma questa volta la tomba arriva al culmine basso. La prima volta era qua, era un grido, la seconda volta si ripiega e lì anche il pianoforte abbandona la regione acuta in cui è rimasto confinato per tutto il lead e scivola nella regione grave, spegnendosi. Ascoltiamo l'intero lead. Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen, ist bis heute für und für um mein Haupt geflogen. Krähe, wunderliches Tier, willst mich nicht verlassen? Meinst wohl, bald als Beute hier meinen Leib zu fassen? Nun, es wird nicht weit mehr gehen an dem Wanderstab. Lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Krähe, lass mich endlich sehen, Treue bis zum Grabe. Un vero e proprio spegnersi nel grave, e siamo stati sospesi per 2 minuti a questo acuto, e poi questa da pelle d'oca tirata verso la parola grave, ma soprattutto mi sarai fedele almeno tu fino alla tomba, gridato in alto, ripiegato in basso e spegnendo il pianoforte poi nell'estremo oscuro, ancora più estremo in quanto subito fino a lì eravamo stati sempre molto più nell'acuto, col naso verso il cielo della cornacchia. Passiamo al lead numero 20, Der Wegweiser, uno strano titolo naturalmente, cioè il segnale stradale sostanzialmente, oggi ci sono 2 titoli piuttosto insoliti. Parto direttamente dalla lettura del testo, sono 4 strofe e anche qui senza fare commenti forse si capirà subito qual è il centro di interesse di Schubert. Perché evito i sentieri battuti dagli altri viandanti e cerco passaggi nascosti attraverso rupi innevate? Non ho commesso nulla perché io debba evitare l'uomo. Quale assurda brama mi spinge nei luoghi deserti? Lungo le vie si levano segnali che guidano attraverso la città ed io mi dirigo altrove, senza pace, ma cerco pace. Qui vedo un segnale fisso davanti a me. Devo prendere la via da cui mai nessuno è ritornato. Va da sé che quel segnale che obbliga questo, la cosa più forte di questo testo è devo prendere la via, devo, sono attratto da una via da cui nessuno è tornato, cioè sono attratto dalla morte, ma sono attratto dalla morte ed è un dover essere, devo andare in quella direzione. Le scelte di Schubert, allora va da sé che quello è il centro di interesse e che quindi verso lì, verso quel punto si indirizzerà il centro musicale. Tuttavia qua la scelta di Schubert in qualche modo colpisce, cioè mentre prima nella nostra cornacchia era fin troppo evidente, c'era una corrispondenza diretta tra l'articolazione pianistica acuta, tra il timbro acuto e il fatto che l'uccello volasse sopra la sua testa, dovrei dire quasi madrigalistico, qua invece colpisce il contrasto. Il testo in fondo è inquietissimo fin dall'inizio, perché evito i sentieri battuti dagli altri, cerco passaggi nascosti attraverso rupi innevate, non ho commesso nulla, eccetera, eccetera, eppure Schubert, viceversa, sceglie un'articolazione pianistica calma, molto morbida, niente affatto inquieta. Io potrei dire che c'è qualche cosa, e poi capirete il perché, qualcosa di barocco. E infatti proporrò un accostamento. Ascoltiamo intanto l'inizio di Der Wegweiser, del Lied Schubertiano. E senza ulteriori commenti ascoltiamo l'inizio del 22° preludio dal primo libro del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Sembra evidente che si tratta esattamente della stessa cellula, dello stesso ribattuto sotto. Attenzione, non sto assolutamente dicendo che Schubert abbia copiato Bach. Bach, peraltro, scorreva nelle vene di ogni musicista, quindi non sarebbe un problema. Mi interessa il fatto che questa calma della cellula barocca, si tratta di un ribattuto barocco, è la stessa calma che c'è nella cellula di Schubert. E la cosa diventa ancora maggiore, più evidente, se ascoltiamo la parte centrale del Lied Schubertiano in maggiore. Attenzione, in altri casi abbiamo fatto notare che il passaggio minore maggiore equivale a un testo che parla di passato, di primavera, di bel rapporto con la amata. E in questo caso non si capisce assolutamente, perché lui passa in maggiore, sentirete un inizio di maggiore estremamente dolce, ma il testo è: non ho commesso nulla perché io debba evitare l'uomo, quale assurda brama mi spinge nei luoghi deserti. Qua siamo veramente di fronte a una estraneità testo-musica. Ascoltiamo questo maggiore. Habe ja doch nichts begangen, dass ich Menschen sollte scheuen, dass ich Menschen sollte scheuen. Non si capisce, oggettivamente in questo caso non si capisce il perché di questo serenissimo maggiore, mentre uno dice: ma io non ho commesso nulla per evitare l'uomo, quale assurda brama, non vi sembrerà, no, una musica per un'assurda brama che spinge nei luoghi deserti? Ma, e c'è un ma, arriviamo poi alla quinta strofa. Qui vedo un segnale fisso davanti a me, devo prendere la via da cui mai nessuno è ritornato, e improvvisamente quel ribattuto diventa un'altra cosa, diventa l'ossessione, diventa qualche cosa di cui non si può fare a meno, qualcosa che ci porta da in una parte terribile ma che non possiamo evitare. Ho già usato una volta la frase di Kurt che qui il tale compositore prende dal futuro, io dovrei dire qui Schubert prende da Chopin. Possiamo pensare alla goccia d'acqua di Chopin. Senza commenti, ascoltiamo un momento l'inizio di questa parte e poi la commento. Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Einen Weiser. Veramente ossessivo e ossessionante. Se lo guardiamo un attimo al pianoforte, scopriamo cosa succede nell'armonia. L'armonia non risolve più. La voce è un ribattuto continuo. E il tranquillo ribattuto barocco è diventato qualcosa che ci opprime, che ci ossessiona. E l'armonia gli va dietro, perché è un'armonia ribattuta ma che non risolverà mai. Diventa una cosa tipo... sempre più lontano, sempre più forte, sempre più lontano, sempre più forte. Eccetera. Attenzione, poi tra poco il giro ricomincia e ricomincia di nuovo col ribattuto. Non è finito, ne ho suonato soltanto uno, lo sentirete nell'ascolto integrale. Questo è il centro di interesse, non voglio fermarmi di più. Faccio notare che ancora per una volta c'è uno sbilanciamento formale, una deformazione formale che dà il peso specifico di questa strofa. 54 battute per 4 strofe, tipo 14 per ciascuna, e 29, cioè più del doppio, sulla quinta, mediante una ripetizione. La ripetizione ci rende implacabile questo cartello che ci porta lungo la via da cui nessuno è mai ritornato. Suche mir Verständnis. Weise stehen auf den Straßen, weisen auf die Städte zu. Und ich wandere sondermaßen ohne Ruh und suche Ruh. Und ich wandere sondermaßen ohne Ruh. Straße muss ich gehen, eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Einen Weiser seh ich stehen und verrückt vor meinem Blick. Eine Straße muss ich gehen, die noch keiner ging zurück. Die Questa volta siamo riusciti ad ascoltare interamente il Lied Schubertiano, potete ancora riascoltarlo sempre nel sito di Radio 3, ma questa volta c'è stato anche nella trasmissione e spero sia passato questo enorme contrasto tra la solennità forse immotivata rispetto al testo della prima parte e questa oscura, drammatica tensione dell'ultima parte. Bene, io vi do appuntamento la settimana prossima per ancora un paio di puntate su questi leader da Winterreise che non posso abbandonare nella mia vita. Spero mi sopportiate ancora a parlare di qualcosa che amo profondamente e buona settimana a voi. Radio 3 Lezioni di musica. A cura di Paola Damiani. Potete ascoltare le composizioni e argomento della lezione dal sito di Radio 3 cliccando su Classica Radio 3.